Vedete, mio caro Tulliver, seguitò Mr. Riley, quando vi imbattete in un uomo di perfetta cultura come Stelling, questi non troverà difficoltà ad impartire qualunque genere di istruzione. Quando un muratore conosce l'uso dei suoi mattoni, può costruirvi altrettanto bene una porta quanto una finestra. Ah, questo è vero, disse Tulliver, ormai quasi convinto che nel clero dovevano trovarsi i migliori maestri. Bene, vi voglio dire quel che farò per voi, disse Mr. Riley, e non lo farei certo per chi che sia. Andrò a far visita al suocero di Stelling, oppure gli scriverò due righe quando tornerò a Brazing, per dirgli che voi desiderate di mettere vostro figlio da suo genero e credo che Stelling vi scriverà fissandovi le sue condizioni. Ma non c'è premura, è vero? Disse Mrs. Tulliver, perché spero, Tulliver, che non vorrai che Tom cominci una nuova scuola prima della mezz'estate. All'Accademia c'è entrato nel trimestre dell'assunta e tu sai bene che risultato ha avuto. Ehi, Bessie, se hai cattivo malto, non far mai la tua birra sotto San Michele, altrimenti spillerai una magra bevanda, disse Mr. Tulliver, sorridendo e ammiccando a Mr. Riley con il naturale orgoglio dell'uomo che ha una moglie sottomessa e notevolmente inferiore a lui di intelligenza. D'altronde, è vero che non c'è premura, stavolta l'hai detta giusta, Bessie. Però sarebbe meglio non rimandare troppo la sistemazione, disse pacatamente Mr. Riley, perché Stelling potrebbe ricevere delle proposte da altre parti e io so che non prenderebbe più di due o tre convittori e forse neppure tanti. Al vostro posto credo che intavolerei subito l'affare con Stelling. Non è necessario mandargli il ragazzo prima della mezz'estate, ma io mi metterei subito in regola per essere sicuro che nessuno mi porti via il posto. Ah, neanche questa non è sbagliata, disse Mr. Tulliver. Babbo! saltò su Maggie, la quale senza farsi vedere era di nuovo sgusciata accanto al padre e ascoltava a bocca aperta, tenendo a gambe all'aria la bambola di cui schiacciava il naso contro il legno della sedia. Babbo, è molto lontano il posto dove andrebbe Tom. Non potremo mai andare a vederlo. Non lo so, piccina, disse il padre con tenerezza. Domandalo a Mr. Riley, lui lo sa. Maggie si volse prontamente a Mr. Riley e disse: Per piacere, signore, quanto è distante? Oh, c'è tanta, tanta strada, rispose quel gentiluomo, essendo del parere che coi bambini, quando non fanno i cattivi, bisogna sempre parlare scherzosamente. Dovresti farti imprestare gli stivali delle 7 leghe per arrivarci. Questa è un'assurdità, disse Maggie, scuotendo orgogliosamente il capo, volgendo le spalle mentre dagli occhi le sgorgavano lacrime. Cominciava a prendere in antipatia Mr. Riley. Era chiaro che gliela trovava scema e senza importanza. Zitta, Maggie, non hai vergogna di fare delle domande e di cianciare tanto? Disse la madre. Vieni a sederti sulla tua seggiolina e tieni la lingua a freno. Su. Ma, soggiunse Mrs. Tulliver, che per conto suo s'era messa in allarme, è proprio così distante che io non possa lavargli e rammendargli la biancheria? Oh, una quindicina di miglia, ecco tutto, disse Mr. Riley. In un giorno potete comodamente andare e tornare con la carrozza. Oppure Stelling, che è una persona ospitale e cortese, sarà ben contento di trattenervi là. Ho paura che sia troppo lontano per la biancheria, disse Mrs. Tulliver con tristezza. All'arrivo della cena aggiornò opportunamente questa difficoltà e liberò Mr. Riley dalla noia di dover suggerire una qualche soluzione o compromesso, noia a cui altrimenti egli si sarebbe senza dubbio sobbarcato, perché, come vi sarete accorti, era un uomo di modi assai servizievoli. In realtà, si era preso la briga di raccomandare Stelling all'amico Tulliver senza alcuna speranza di un concreto e preciso vantaggio personale, ad onta dei sottili indizi in contrario che avrebbero potuto trarre in inganno un osservatore troppo astuto, perché non c'è nulla di più decisamente fallace che l'astuzia quando le capita di mettersi su una falsa pista. E l'astuzia, persuasa che gli uomini sempre parlino ed agiscano per motivi particolari, avendo in vista una finalità premeditata, finisce col disperdersi in un gioco di pura immaginazione. Intrigante cupidigia e deliberata macchinazione, intese a scopi egoistici, non abbondano che nel mondo dei drammaturghi. Esse richiedono uno sforzo mentale troppo intenso perché la maggior parte dei nostri buoni parrocchiani possa rendersene colpevole. È abbastanza facile rovina la vita dei nostri simili, senza prendersi tanto disturbo, bastano lievi condiscendenze o lievi dimenticanze. Grossolane falsità di cui a malapena sappiamo la ragione, piccole frodi neutralizzate da piccole follie, lusinghe maldestre, insinuazioni stupidamente improvvisate. Si vive la maggior parte di noi alla giornata, con una breve schiera di desideri immediati, non si fa altro che mordere un boccone per soddisfare quella schiera affamata, pensando di rado al seme o alla messe dell'anno venturo. Mister Riley era uomo d'affari e tutt'altro che indifferente ai propri interessi, anche se obbediva più a piccole influenze momentanee che a disegni lungimiranti. Non aveva segrete intelligenze col reverendo Walter Stelling, anzi sapeva assai poco di questo master of the art del suo talento. Non abbastanza forse per autorizzare una così energica raccomandazione come quella che ne aveva fatta al suo amico Tulliver. Ma era persuaso che Stelling fosse un eccellente classicista, perché così aveva detto Gatsby. E un primo cugino di Gatsby era assistente a Oxford, il che per lui costituiva un motivo di fiducia più solido che la sua stessa osservazione diretta. Perché quantunque Mr. Riley avesse ricevuto dei rudimenti di cultura classica alla grande scuola libera di Mudport e serbasse il senso di capire il latino in genere, la sua comprensione di qualunque latino in specie era tutt'altro che pronta. Senza dubbio un sottile aroma gli era rimasto dai suoi giovani contatti col De Senectute e col quarto libro dell'Eneide, ma questo aveva cessato di essere riconoscibile come umanesimo e trapelava soltanto da un che di più rifinito e più energico nel suo stile professionale. E poi Stelling veniva da Oxford e tutti quelli che vengono da Oxford sono sempre stati. No, no, sono quelli che vengono da Cambridge che sono sempre stati dei buoni matematici. Ma uno che abbia ricevuto un'educazione universitaria può insegnare tutto ciò che gli pare. E massimamente un uomo come Stelling, che aveva tenuto un discorso a un banchetto di Mudport in una circostanza politica e se l'era cavata così bene che tutti avevano notato che quel genero di Timpson era un tipo in gamba. C'era da aspettarselo che uno di Mudport e della parrocchia di Santa Orsola non avrebbe tralasciato di rendere un buon servizio al genero di Timpson, perché Timpson era una delle persone più utili ed influenti della parrocchia e aveva una quantità di affari che sapeva mettere in buone mani. Mr. Riley amava gli uomini di questa specie, anche a prescindere dal denaro che per via del loro retto giudizio poteva, da tasche meno degne, essere stornato alle proprie. E sarebbe stata per lui una soddisfazione di poter dire a Timpson, tornando a casa, «Ho assicurato un buon allievo a vostro genero». Timpson aveva parecchie figlie e Mr. Riley si sentiva solidale con lui. Inoltre il viso di Louisa Timpson, con i suoi riccioli chiari, era stato per lui, sul suo banco di chiesa, la visione familiare di ogni domenica per circa 15 anni. Era naturale che il marito di lei dovesse essere un precettore raccomandabile. Per di più, Mr. Riley non conosceva altri maestri che per una qualunque ragione dovesse di preferenza raccomandare. Perché, dunque, non raccomandare Stelling? L'amico Tulliver gli aveva chiesto un parere ed è sempre spiacevole in una conversazione tra amici dover confessare di non poter dare un parere. E quando si dà un parere qualunque è semplicemente stupido non farlo con aria di persuasione e di fondata conoscenza. Esprimendolo, voi lo fate vostro e naturalmente ve ne innamorate. Così Riley, che da principio considerava Stelling solo come un individuo verso cui non aveva speciali antipatie e a cui anzi desiderava del bene, dato che potesse desiderargli qualcosa, si era appena messo a raccomandarlo, che già cominciava a pensare con ammirazione a un uomo raccomandato sulla base di sì alta autorità ed aveva subito preso un tale interesse alla cosa, che se Tulliver alla fine avesse rinunciato a mandare Tom da Stelling, Mr. Riley avrebbe giudicato questo suo amico di vecchia scuola come uno stupido ostinato. Che se voi biasimaste troppo severamente Mr. Riley per una raccomandazione fondata su motivi così superficiali, vi direi che siete un tantino duro verso di lui, come si sarebbe potuto aspettare che un perito estimatore di 30 anni fa, il quale aveva completamente dimenticato il latino della sua scuola libera, desse prova di una delicatezza di scrupoli che non sempre viene dimostrata da signori di professioni liberali, sia pure della nostra epoca di progrediti costumi. D'altronde, Un individuo che abbia in sé il latte dell'umana bontà difficilmente si può trattenere dal compiere una buona azione, e buoni non si può essere verso tutti. La natura stessa alloggia a volte uno scomodo parassita su un animale contro cui non ha alcun malvolere. E allora che si fa? Si ammira l'interesse che essa mostra per il parassita. Se a Mr. Riley fosse ripugnato di fare una raccomandazione non fondata su solide evidenze, egli non avrebbe fornito a Stelling l'aiuto di uno scolaro pagamento, il che sarebbe stato meno simpatico per il reverendo. Si tenga conto inoltre di tutti i piccoli sentimenti di intima soddisfazione, confusi ma piacevoli. Serbarsi in buoni rapporti con Timpson, dare un parere quando se ne è richiesti, infondere all'amico Tulliver un senso di nuovo rispetto, e dir qualcosa e dirlo con eloquenza, unitamente a tutti quei piccoli ammennicoli che, auspici il buon caldo e l'acqua e grappa, s'aggiungevano in quel momento ad ingrandire in Riley la coscienza di sé. Tutte cose che altrimenti sarebbero andate perdute. 4. Si attende Tom. Per Maggie fu un grave disappunto che non le fosse permesso di accompagnare il babbo sul barroccio quando egli andò a prendere Tom all'accademia. Ma la mattina era troppo umida, disse Mrs. Tulliver, perché una bimba potesse uscire col suo cappello migliore. Maggie s'attaccò con molta risolutezza all'opposto partito e diretta conseguenza di una tale disparità di vedute fu che, quando la madre stava ravvivandole la nera chioma ribelle, Maggie d'un tratto le sgusciò di sotto le mani e tuffò la testa nella vicina catinella, con la vendicativa decisione che per quel giorno non ci sarebbe stata più possibilità di riccioli. «Maggie, Maggie!» esclamò Mrs. Tulliver sedendosi ostinata e senza speranza, con le spazzole in grembo. «Che ti succederà essere così cattiva? Lo dirò a zia Glegg e a zia Pallet quando verranno la settimana prossima, e loro non ti vorranno più bene. Santo cielo! Santo cielo! Guarda il tuo grembiule pulito, tutto bagnato da cima a fondo! Ah, la gente penserà che io l'abbia per punizione una bambina simile. Penserà che io abbia commesso una quantità di peccati!» Prima che questa ramanzina fosse terminata, Maggie s'era già messa fuori tiro, filando verso il grande solaio che si stendeva sotto il vecchio tetto aguzzo e correndo si scuoteva via l'acqua dalle ciocche come uno Skye Terrier scappato dal bagno. Questo solaio era il rifugio prediletto di Maggie nei giorni umidi, quando il tempo non era troppo freddo. Qui ella sfogava tutti i suoi malumori e parlava ad alta voce col soffitto, gli scaffali intarlati, con le nere travi festonate di ragnatele. Qui ella teneva un feticcio a cui faceva scontare tutte le proprie disgrazie. Era questo il torso di una grossa bambola di legno che un tempo aveva spalancato i più tondi occhi a sommo delle più rosse guance, ma adesso era completamente sfigurata da una lunga carriera di patimenti per procura. Tre chiodi conficcati nel capo commemoravano altrettante crisi nei 9 anni di terreno travaglio della vita di Maggie. Esuberanza di vendetta che le era stata suggerita dalla illustrazione di Giaele che annienta Sisera nella vecchia Bibbia. L'ultimo chiodo era stato piantato con un colpo più violento del solito, giacché in quell'occasione il feticcio aveva rappresentato zia Glegg. Ma subito dopo Maggie aveva riflettuto che se piantava troppi chiodi non si sarebbe poi più potuta immaginare che quella testa dolorasse allorché la sbatteva contro il muro, né le avrebbe più recato sollievo, fingendo di applicarle dei cataplasmi una volta passato il furore, perché infine anche zia Glegg diventava degna di pietà, quando le fiere percosse e la totale umiliazione l'avrebbero ridotta a chiedere perdono alla nipote. Da allora in poi ella non aveva piantato altri chiodi, ma si era consolata con un alterno sfregare e sbattere quel capo di legno contro il ruvido mattone delle grandi canne da camino che formavano i 2 pilastri quadri su cui si reggeva il tetto. E così fece pure quella mattina, allorché raggiunse il solaio, singhiozzando per tutto il tempo con un trasporto che escludeva ogni altra forma di coscienza, perfino il ricordo del torto che ne era stato cagione. Quando alla fine i singhiozzi si furono un po' calmati e lo sfregamento fu divenuto meno feroce, Un improvviso raggio di sole, piovendo dal graticcio metallico sugli scaffali interlati, le fece buttar via la bambola per accorrere alla finestra. Il sole stava proprio per romper fuori, il rumore del mulino pareva nuovamente allegro, le porte del granaio erano aperte e c'era Yap, il bizzarro terrier bianco e bruno con un orecchio arrovesciato, che s'aggirava fiutando vagamente l'aria, come fosse in cerca di un compagno. Tutto ciò era irresistibile. Maggie scosse all'indietro i suoi capelli e si precipitò da basso, prese il cappello senza metterselo, diede una sbirciata e poi filò per il corridoio nel timore di incontrare la mamma. E in un attimo fu in cortile, roteando come una pitonessa e cantando in quel roteare «Yap, yap, Tom torna a casa!» mentre Yap le saltellava intorno e abbaiava, come per dire che se faceva bisogno di chiasso lui era il cane che ci voleva. «Ehi, ehi, signorina! Vi farete venire il capogiro e cadrete nel fango!» gridò Luke, il mugnaio capo, un omaccione sulla quarantina, dalle grosse spalle, nero d'occhi e di capelli, tutto cosparso di un polverio di farina, come un orecchio d'orso. Maggie smise di roteare e, un po' barcollando, disse «Ma che? A me non viene il capogiro per questo, Luke. Posso entrare nel mulino con voi?» Maggie amava di indugiare nei grandi locali del mulino e spesso ne usciva coi neri capelli incipriati di un soffice biancore che faceva balenare i suoi neri occhi di più vivida fiamma. Il vigoroso frastuono, l'infaticabile moto delle grandi mole che le dava un confuso e delizioso sgomento come la presenza di una forza incontrollabile. La farina che veniva giù senza posa. L'impalpabile polvere bianca che addolciva tutte le superfici e perfino alle ragnatele dava l'aspetto di una fantastica trina. Il dolce e puro profumo della farina, tutto contribuiva a far sentire a Maggie che il mulino era un piccolo mondo a sé, fuori della vita quotidiana che la conduceva all'esterno. I ragni costituivano per lei un oggetto di particolare osservazione. Si domandava se essi potevano avere dei parenti fuori del mulino, perché in tal caso doveva esserci una penosa difficoltà nei rapporti familiari. Un grosso ragno infarinato, avvezzo a mangiar mosche ben cosparse di farina, doveva un pochino soffrire alla tavola di un cugino dove le mosche erano au naturel e le signore ragnesse dovevano sentirsi vicendevolmente urtate dalla loro diversità di aspetto. Ma la parte del mulino che più le piaceva era il piano di sopra, i magazzini dove c'erano i grandi mucchi di grano su cui ella poteva sedersi e fargli sdruccioloni. Aveva appunto l'abitudine di prendersi questo spasso mentre chiacchierava con Luke, verso il quale si mostrava molto espansiva, nella speranza che egli si facesse, come il babbo, un alto concetto della sua intelligenza. E forse, quella volta, sentiva appunto la necessità di recuperare il proprio prestigio ai suoi occhi. Fatto sta che, mentre sdrucciolava giù dal mucchio di grano presso il quale gli stava lavorando, gli disse, con quella voce acuta che era indispensabile per parlare nel mulino, «Credo che voi non abbiate mai letto altro libro che la Bibbia, ne vero, Luke?» «È proprio così, miss, e non molto neppure di quella», rispose Luke con grande franchezza. «Io non sono un grande lettore, io. Ma se vi imprestassi uno dei miei libri, Luke, non ne ho molti di veramente belli e che siano facili da leggere per voi, ma c'è il Giro d'Europa di Pug che vi spiegherà ogni sorta di cose sulle varie specie di gente del mondo. E se non capiste quel che leggete, ci sono le figure che vi possono aiutare. Mostrano le facce, le maniere di quella gente e ciò che essi fanno. Ci sono gli olandesi, grassi grassi, che fumano, sapete, e ce n'è uno che sta seduto su un barile. Oh, miss, io non ho buona opinione degli olandesi e c'è poco guadagno sapere qualcosa di loro. Ma sono i nostri simili, Luke, e noi dobbiamo conoscerli, i nostri simili. Non credo poi tanto simili, miss. Tutto quel che so è che il mio vecchio padrone, uno che se ne intendeva, diceva sempre, e diceva, «Se mai semino il mio frumento senza marinarlo, sono un olandese», diceva. E questo valeva quanto dire che un olandese è uno scemo, o poco ci manca. No, no, io non voglio andarmi ad annoiare con gli olandesi. Di scimuniti e di bricconi ce n'è già abbastanza senza doverli andare a cercare nei libri. Oh, bene, disse Maggie, un po' sconcertata da quelle vedute di Luke così inaspettate e decise sugli olandesi. Forse vi piacerà di più la natura animata? Lì niente olandesi, sapete, ma elefanti, canguri e lo zibetto e il pesce luna e l'uccello che si siede sulla coda, non so più come si chiami. Ci sono dei paesi pieni di questi animali, invece che di cavalli e di mucche, capite? Non sareste contento di saperne qualche cosa, Luke? No, miss, io devo tenere i conti della farina e del grano, non ce la farei a imparare tante cose in soprappiù del mio lavoro. È proprio questo che porta la gente sulla forca, saper tutto, fuorché quello che serve a guadagnarsi il pane. E poi sono quasi tutte bugiarderie, credo. Quelle che si stampano sui libri, sì, quei fogli stampati sono su per giù ciò che la gente grida per le strade. Ecco, Luke. Voi siete come mio fratello Tom, disse Maggie nell'intento di dare alla conversazione una piega gradevole. A Tom piace poco di leggere. Io a Tom gli voglio tanto bene, Luke, più bene che a chiunque altro al mondo. Quando lui sarà grande, io manderò avanti la sua casa e vivremo sempre insieme. Tutte le cose che lui non sa posso dirgliele io. Ma credo che Tom sia intelligente, anche se non gli piacciono i libri. Sa fare magnificamente le cordicelle da frusta e le gabbie per i conigli. Ah, disse Luke, ma allora sarà ben seccato che tutti i conigli siano morti. Morti? Esclamò Maggie, balzando dal mucchio di grano su cui sdrucciolava. Santo cielo, Luke, come? Quello dalle orecchie pendenti? E anche la coniglia picchiettata, che Tom ha speso tutti i suoi denari per comprarli. Morti come talpe, disse Luke, andando a cercare il termine di paragone negli inequivocabili cadaveri inchiodati alla parete della stalla. Santo cielo, Luke, disse Maggie con voce angosciata mentre grosse lacrime le cadevano giù per le gote. Tom m'aveva raccomandato d'averne cura e io me ne sono dimenticata. Che farò? Beh, vedete, miss, erano in quella rimessa fuori mano e nessuno aveva l'incarico di badarci. Mi immagino che Mastro Tom abbia detto a Harry di dar loro da mangiare, ma su Harry non c'è da far nessun conto. È l'individuo più da poco che sia mai passato per questo podere. Si ricorda solo della propria pancia e vorrei che gli scoppiasse. Oh, Luke, Tom l'aveva raccomandato a me di ricordarmi tutti i giorni dei conigli e di non mancare. Ma come potevo se non mi venivano in mente? Oh, sarà tanto in collera con me, lo so, e ci patirà tanto per i suoi conigli. E così ci patisco anch'io. Oh, che posso fare? Non vi crucciate, miss, disse Luke per consolarla. Sono brutte bestie quei conigli dagli orecchi penzoloni. E magari morivano lo stesso se anche avevano da mangiare. Le cose contro natura non vanno mai bene. Il Dio Onnipotente non le ama. E gli ha fatto le orecchie dei conigli arrovesciate all'indietro, ed è una contraddizione bella e buona volerle far penzolare all'ingiù, come quelle dei mastini. Mastro Tom un'altra volta se ne intenderà di più e non comprerà di quelle bestie. Non vi crucciate, miss. Volete venire a casa mia a vedere mia moglie? Io ci sto andando proprio adesso. Questo invito offriva una gradevole distrazione alla pena di Maggie, le lacrime le cessarono a poco, mentre trotterellava al fianco di Luke verso il comodo casolare che sorgeva coi suoi alberi di mele e pere e con l'accessorio ornamento niente meno di un covile per i porci presso le rive della Ripple. Mrs. Moggs, la moglie di Luke, era decisamente una simpatica conoscenza e la esercitava la sua ospitalità offrendo pane e melassa e possedeva varie opere d'arte. Per un momento Maggie si dimenticò che quella mattina aveva alcuni precisi motivi di malumore appena si fu seduta a guardare un'interessante serie di figure che rappresentavano il figlio il prodigo nel costume di Sir Charles Grandison, eccezion fatta che secondo era da aspettarsi da così difettoso carattere morale, non aveva, come quel compito eroe, né il gusto né la forza d'animo di fare a meno della parrucca. Ma l'indefinibile angoscia, lasciatale nell'animo dalla morte dei conigli, Faceva sì che la sentisse più pietà del solito per il destino di quel giovane irresoluto. Massimamente, quando guardò la figura nella quale gli si appoggia ad un albero in aspetto miserabile, coi calzoni a brandelli e la parrucca sconvolta, mentre i porci, probabilmente di razza forestiera, paiono buttargli in viso l'alacrità con cui attendono il loro festino di rifiuti. Sono proprio contenta che suo padre l'abbia riaccolto. E voi, Luke? Ella disse. Perché era davvero pentito, sapete, e non voleva mai più essere cattivo. Miss, disse Luke, ho paura che non abbia fatto una gran riuscita, per quanto suo padre si sia dato pena per lui. Fu questo un doloroso pensiero per Maggie, la quale avrebbe tanto desiderato che il seguito della storia di quel giovane non fosse rimasto ignoto. 5. Tom arriva a casa. Tom doveva arrivare nel pomeriggio per tempo e c'era un altro cuore che batteva, oltre quello di Maggie, quando venne l'ora in cui da un momento all'altro lo strepito della carrozza poteva farsi sentire, giacché se Mrs. Tulliver aveva qualche forza di sentimenti, questa si manifestava proprio nell'amore per suo figlio. Finalmente ecco lo strepito, quello gaio, leggero, sobbalzante che fanno le ruote di una carrozza. E a dispetto del vento che stava spazzando via le nuvole e pareva disposto a non rispettare né i riccioli né i nastri della cuffia di Mrs. Tulliver, ella uscì fuori del cancello e giungeva perfino a tenere la mano sul colpevole capo di Maggie, dimenticando tutti i torti del mattino. Eccolo qui, il mio caro figlio! Ma che Dio ci salvi, non ha colletto! Oh, l'avrà perduto per via, ci scommetterei. E così la dozzina è spaiata. Mrs. Tulliver se ne stava a braccia aperte. Maggie saltellava su una gamba e poi sull'altra, mentre Tom scendeva dalla carrozza e con maschio pudore, per le tenere emozioni, diceva: Ebbene, Yap, Toh, sei qui? Si sottomise, non di meno abbastanza volentieri, ad essere baciato. Quantunque Maggie si fosse attaccata al suo collo in tal modo che per poco non lo strangolava. E frattanto i suoi occhi grigio-azzurri vagavano verso il podere e le pecore ed il fiume, dove si riprometteva che all'indomani mattina per prima cosa avrebbe incominciato a pescare. Era uno di quei ragazzi come in Inghilterra ne crescono dappertutto, e a 12 o 13 anni somigliano parecchio a dei paperi. Un ragazzo dai capelli bruno chiari, dalle guance di crema e di rosa, dalle labbra piene, con un naso e dei sopraccigli non ben definiti. Una di quelle fisionomie in cui pare impossibile discernere qualcos'altro che i generici caratteri dell'infanzia. Differente quanto possibile da quella della povera Maggie, che la natura pareva aver modellato e colorito con più decise intenzioni. Ma questa stessa natura ha le sue astuzie profonde che si celano sotto l'apparenza della franchezza, sicché quando i semplici credono di potervi leggere a più chiare note, ecco che proprio allora essa prepara una smentita alle loro fiduciose profezie. Sotto queste fisionomie infantili, così comuni, che paiono fabbricate in serie, essa nasconde alcuni dei suoi più rigidi e inflessibili propositi, alcuni dei suoi più immutabili caratteri. E la fanciulla dagli occhi neri, espansiva e ribelle, potrà, dopo tutto, diventare un essere passivo a paragone con questo roseo esemplare del sesso maschile, dalle fattezze indecise. Maggie, le disse confidenzialmente Tom, traendola in un angolo, non appena la madre fu uscita per ispezionare la sua valigia. Il caldo della sala gli ebbe tolto di dosso l'intirizzimento che lo aveva assalito nella lunga corsa. Tu non sai che cosa ho nelle mie tasche! E scuoteva il capo in su e in giù, come per suscitare in lei il senso del mistero. No, rispose Maggie, ma come sono gonfie, Tom? Biglie? O nocciole? Il cuore di Maggie un poco palpitò perché Tom diceva sempre che non c'era gusto a far con lei simili giochi. Giocava così male lei. Biglie? No, tutte le mie biglie le ho barattate coi compagni e le nocciole non servono a giocare sciocchina, semmai le noci verdi. Ma guarda un po'. E dalla saccoccia di destra estrasse qualcosa, ma solo a metà. Cos'è? Disse Maggie sottovoce. Non riesco a vedere che un po' di giallo. Perché è una nuova Indovina, Maggie. Oh, io non posso indovinare, disse Maggie impaziente. Non fare la bisbetica, altrimenti non te lo dico, esclamò Tom, ricacciandosi la mano in tasca con aria decisa. No, Tom, implorava Maggie, afferrando il braccio che egli teneva duramente cacciato in tasca. Non me la prendo, no, è che non posso soffrire gli indovinelli. Ti prego, sii buono con me. Il braccio di Tom cedette lentamente ed egli disse: Beh, allora è una nuova lenza, anzi due, una per te, Maggie, tutta per te. Io non mi sono voluto mettere in società con gli altri per le frittelle e il pan pepato proprio per risparmiare i soldi. E Gibson e Spouncer hanno baruffato con me perché non volevo. Ed ecco gli ami, guardali, di un po'. Ci andiamo domattina a pescare giù allo stagno rotondo? E tu pescherai i tuoi pesci per conto tuo e metterai i vermicelli e tutto quanto. Sarà poco divertente? Per tutta risposta, Maggie gettò le braccia al collo di Tom e lo abbracciò e accostò la sua guancia a quella di lui senza parlare, mentre egli dipanava pian piano una delle lenze, dicendo, dopo un momento: Non sono stato un bravo fratello, di un po', a comprarti una lenza tutta per te? Sai che se non volevo potevo benissimo fare a meno di comprartela. Oh sì, tanto, tanto buono. Io ti voglio bene, Tom. Tom s'era ricacciato la lenza in tasca e osservò gli ami ad uno prima di rimettersi a parlare. E i compagni hanno fatto baruffa con me perché non ho voluto mettermi con loro per le frittelle. Dio mio, vorrei che non si facesse mai baruffa alla tua scuola. Ti hanno fatto male? Del male a me? Oh no, disse Tom, tornando a raccogliere gli ami. Poi estrasse un grosso coltello da tasca e, apertane adagio la maggior lama, si mise a guardarla con aria meditabonda, passandovi sopra un dito. Finalmente, soggiunse, Spouncer l'ho anzi lasciato con un nero nell'occhio ed era quel che si meritava per aver voluto darmele a me. Non sono tipo da mettermi in società con gli altri solo perché minacciano di darmele. Oh, come sei coraggioso, Tom! Io credo che tu sia come Sansone. Se un leone venisse a ruggire contro di me, credo che tu lo assaliresti. Non è vero, Tom? E come potrebbe un leone venire a ruggire contro di te, sciocchina che sei? Non ci sono leoni, altro che nelle baracche da fiera. No, ma se noi fossimo nei paesi dei leoni, voglio dire, in Africa, dove fa tanto caldo, laggiù i leoni sbranano la gente. Posso fartelo vedere sul libro dove l'ho letto io. Prenderei un fucile e lo ammazzerei. Ma se tu non avessi con te il fucile, potremmo essere usciti senza pensarci, capisci? Proprio come quando si va a pescare. Ed ecco che un grosso leone potrebbe correrci addosso ruggendo e noi non riuscire a sfuggirgli. Che faresti, Tom? Tom tacque e poi finalmente si volse con disprezzo, dicendo: Ma il leone non viene qui, che bisogno c'è di parlarne? Ma a me piace di immaginarmi ciò che succederebbe. Disse Maggie seguendolo. Pensa un po' a quel che faresti, Tom. Oh, non mi seccare, Maggie. Sei talmente sciocca. Andrò a vedere i miei conigli. Il cuore di Maggie cominciò a balzare per il timore. Ella non osò dir subito la triste verità, ma se ne andò, tremante, in silenzio, dietro a Tom che usciva, e pensava come dargli la notizia in maniera da mitigargli subito la pena e la collera, perché Maggie temeva soprattutto la collera di Tom, che era così diversa dalla sua. Tom, disse timidamente quando furono fuori dalla porta, quanto hai speso per i tuoi conigli? 2 mezze corone e 1 sixpence, rispose Tom con prontezza. Credo che di sopra nel mio salvadanaio di ferro ho molto di più. Voglio chiedere alla mamma che te li dia. E perché mai? Disse Tom. Non so che farmene dei tuoi soldi, sciocchina che sei. Ne ho tanti più di te, dei soldi, perché sono un ragazzo. Io ho sempre delle mezze sovrane e delle sovrane nel mio salvadanaio di Natale, perché io sarò un uomo, e tu invece hai solo dei pezzi da 5 scellini, perché non sei che una bimba. Sì, ma Tom, se la mamma mi permettesse di darti 2 mezze corone e 1 sixpence del mio salvadanaio e di metterli nella tua tasca per spenderli, capisci? E comprare degli altri conigli? Altri conigli? Non so che farmene di altri. Oh, ma Tommy, i tuoi sono tutti morti! Tom si fermò di colpo e si voltò verso Maggie. Ti sei dunque dimenticata di dar loro da mangiare. E anche Harry si è dimenticato, disse. E per un momento il suo viso si accese di un rossore che poi subito disparve. Harry lo concerò io per le feste. Lo farò cacciare via. E a te non ti voglio bene, Maggie. Domattina non ci verrai a pescare con me. Te l'avevo detto di andare tutti i giorni a vedere i conigli. Riprese a camminare. Sì, ma me ne sono dimenticata e non l'ho fatto apposta, credimi, Tom. Sono tanto addolorata, disse Maggie mentre le lacrime le colavano giù rapide. Sei una cattiva bambina, disse Tom con severità, e mi dispiace di averti comperato la lenza. Non ti voglio niente bene. Oh, Tom, questa è una vera crudeltà, singhiozzò Maggie. Io saprei perdonarti se tu ti dimenticassi di qualche cosa. Io non ci penserei più, ti perdonerei. E ti vorrei bene. Sì, tu sei una sciocca, ma io non mi dimentico mai di niente, io. Oh, perdonami, Tom, perdonami per piacere. Il mio cuore sta per spezzarsi, disse Maggie, aggrappandosi al braccio di Tom in un convulso di singhiozzi e appoggiando sulla spalla di lui la sua guancia bagnata. Tom la respinse e, tornando a fermarsi, disse in tono perentorio: Stammi bene a sentire, Maggie. Sono un bravo fratello, sì o no? Sì, singhiozzava Maggie e il mento le tremava convulso. È vero, sì o no, che per tutto questo trimestre ho pensato alla tua lenza, con l'idea di comprartela e apposta ho economizzato i miei soldi, rifiutando di far società con gli altri per le frittelle, che Spouse era perfino litigato con me perché non volevo. Sì, ed io ti voglio tanto, tanto bene, Tom. Ma tu sei una cattiva bambina. Nelle ultime vacanze tu hai scancellato il dipinto della mia scatola di pastiglie e nelle vacanze prima avevi lasciato che la barca trascinasse via la mia lenza. E sì che io ti avevo messa lì perché ci stessi attenta e avevi cacciato la testa dentro il mio aquilone senza uno scopo al mondo. Ma non l'ho fatto apposta, disse Maggie. Non ne ho avuto colpa. Sì che ne hai avuta, disse Tom. Bastava che pensassi a quel che facevi. Sei una bimba cattiva e domattina non verrai a pescare con me. Con questa terribile conclusione, Tom piantò in asso Maggie, correndo al mulino per salutare Luke e fargli le proprie rimostranze contro Harry. Maggie, per un momento, rimase immobile, scossa solo dai singhiozzi. Poi si volse e corse in casa su nel solaio. E si sedette sul pavimento appoggiando il capo contro lo scaffale intarlato con uno schiacciante senso di infelicità. Tom era tornato a casa e lei aveva pensato che sarebbe stata tanto contenta ed ecco che lui si era mostrato così duro. Che importava tutto il resto se Tom non le voleva bene? Oh, era troppo duro. Non gli aveva forse offerto i denari? Non gli aveva detto quanto le dispiaceva? Con la mamma sapeva bene di essere cattiva, ma con Tom non lo era mai stata. Non aveva mai voluto esserlo. Oh, com'è crudele! Maggie singhiozzava forte, ascoltando con doloroso piacere la cara eco che si propagava per l'ampio spazio vuoto del solaio. E non pensava neppure di picchiare o di sfregare il suo simulacro, era troppo infelice per sentirsi in collera. Amare pene dell'infanzia. Quando la pena è ancora tutta nuova e ignota, quando la speranza ancora non ha trovato ali per volare, di là dai giorni e dalle settimane, ed il tempo dall'una all'altra estate, pare smisurato. Poi d'improvviso Maggie pensò che era rimasta a lungo nel solaio e che doveva essere l'ora del tè e che tutti stavano prendendo il loro tè senza darsi pensiero di lei. Bene, sarebbe dunque rimasta lassù? E si sarebbe lasciata morire di fame, nascosta dietro la tinozza, avrebbe passato lì tutta la notte, e allora tutti si sarebbero spaventati e Tom ne avrebbe tanto sofferto. Così pensava Maggie, nell'orgoglio del suo cuore, mentre si rintanava dietro la tinozza. Ma ben presto si rimise a piangere all'idea che nessuno si inquietava che lei fosse lì. Tom l'avrebbe perdonata se tornava giù da lui. Forse che ci sarebbe anche il babbo e prenderebbe le sue parti. No, lei aveva bisogno che Tom le perdonasse perché le voleva bene, non perché il padre glielo ordinava. Mai e poi mai sarebbe scesa se Tom non veniva a cercarla. Questa decisione resistette per 5 minuti di buio dietro la tinozza, ma poi il bisogno di essere amata, il più ardente di tutti nell'animo della povera Maggie, cominciò a contrastare col suo orgoglio e in breve lo vinse. Ella sgusciò di dietro la tinozza nel crepuscolo di quell'ampio solaio, ma proprio allora sentì dei passi lesti su per le scale. Tom si era troppo interessato a discorrere con Luke, ad andare in giro per il podere, a passeggiare in lungo e in largo dove più gli garbava, a tagliarsi dei bastoncini solo per sfogarsi che a scuola non se n'era tagliati, e così non aveva pensato a Maggie né agli effetti prodotti su di lei dalla propria collera. Aveva voluto punirla, e adesso che la cosa era fatta, da persona pratica si occupava d'altro. Ma quando venne chiamato per il tè, il babbo gli disse: «Ebbene, dov'è la piccola?» E Mrs. Tulliver, presso a poco nello stesso momento, gli disse: «Dov'è la tua sorellina?» Giacché entrambi credevano che Maggie e Tom fossero rimasti insieme tutto il pomeriggio. «Non lo so», disse Tom, quantunque fosse in collera con Maggie, non voleva farla spia, perché Tom Tulliver era un ragazzo d'onore. «Come? Non è rimasta tutto questo tempo a giocare con te?» disse il babbo. «Non faceva che pensare al tuo ritorno?» «Sono 2 ore che non la vedo», disse Tom, dando l'attacco al plum cake. «Bontà divina, è annegata!» esclamò Mrs. Tulliver, balzando dalla seggiola e precipitandosi alla finestra. «Come hai potuto lasciarla fare?» soggiunse da donna paurosa, pronta a dar la colpa a chissà chi di chissà che. «No, no, non è annegata», disse Mr. Tulliver. «Ho paura che tu sia stato cattivo con lei, non è vero, Tom?» «No, babbo, no, di sicuro», disse Tom sdegnato. «Credo che sia in casa». «O forse su in soffitta», disse Mrs. Tulliver, «a cantare o a chiacchierare da sola, dimenticandosi completamente delle ore dei pasti». «Vai e conducila giù, Tom», disse Mr. Tulliver con una tal quale severità, fosse la sua perspicacia o la sua paterna tenerezza per Maggie a fargli sospettare che il ragazzo doveva essere stato duro con la piccola, che altrimenti quella non se ne sarebbe mai staccata. «E sii buono con lei, capisci? Se no te ne farò pentire». Tom non disobbediva mai a suo padre, perché Mr. Tulliver era un uomo autoritario e, come diceva lui, non avrebbe mai permesso a nessuno di toccargli il suo frustino. Ma uscì con certo dispetto, portandosi via la sua fetta di plum cake, e non intendendo affatto di sospendere una punizione che Maggie si era né più né meno che meritata. Tom non aveva che 13 anni e non possedeva opinioni sicure sulla grammatica e sull'aritmetica, che anzi riteneva in massima come questioni ancora in sospeso. Ma c'era un punto d'onore invece sul quale era ben fermo e deliberato, cioè che egli avrebbe punito chiunque se lo meritasse. Dopotutto, a lui personalmente non sarebbe importato nulla di essere punito, qualora se lo fosse meritato. Ma non se lo meritava mai. Era appunto il passo di Tom, quello che Maggie udì su per le scale. Nel momento in cui il suo bisogno di tenerezza aveva trionfato dell'orgoglio ed ella stava per scendere, gli occhi gonfi e i capelli sconvolti, a chiedere pietà. Almeno il babbo le avrebbe carezzato il capo, dicendo: «Non ci pensare più, mia piccola». Meraviglioso dominatore, questo bisogno di tenerezza, questa fame del cuore, tirannica come tutte le altre fami con cui la natura ci costringe a subire il suo giogo. E muta la faccia del mondo. Riconobbe il passo di Tom e il cuore cominciò a palpitarle violento in un subito soprassalto di speranza. Quegli si contentò di fermarsi al sommo della scala e le disse: «Maggie, devi venire da basso». Ma ella si slanciò verso di lui e gli si strinse al collo, singhiozzando: «Oh, Tom, ti prego di perdonarmi, non posso resistere, sarò sempre buona. E ricorderò sempre di tutto, voglimi bene ancora, te ne prego, caro Tom». Solo con gli anni si impara a star sulle nostre. Allora sappiamo tenerci in disparte quando abbiamo avuto dei dissapori con qualcuno, sappiamo esprimerci con frasi ben rigirate e mantenere così una dignitosa inimicizia, facendo mostra, per un verso, di maggiore fermezza e per un altro inghiottendo più rancore. Il nostro contegno non ha più nulla di comune con la semplice impulsività degli animali inferiori, che anzi, sotto ogni rispetto, ci comportiamo come i membri di una società altamente civilizzata. Maggie e Tom erano ancora molto simili a giovani animali, e perciò Ella poteva strofinare la propria gota contro quella di lui e baciargli l'orecchio singhiozzando. E nel ragazzo c'erano delle corde sensibili, abituate a rispondere all'affetto di Maggie, sicché egli si comportò con una debolezza del tutto contrastante col proposito di punirla come si meritava. E subito cominciò a renderle quei baci, dicendole: «Non piangere, Maggie, to, mangia un pezzetto di cake». I singhiozzi di Maggie cominciarono a quietarsi. Ella protese la bocca verso il cake e ne morsicò un pezzetto. Allora anche Tom ne morsicò un pezzetto, tanto per farle compagnia, e mangiarono insieme, carezzandosi a vicenda le gote e la fronte e il naso, mentre mangiavano con una umiliante somiglianza a due puledri amici. «Su, Maggie, vieni a prendere il tuo tè», disse finalmente Tom, quando non rimase altro cake che quello che c'era giù da basso. E così finirono le pene di quel giorno, e il mattino seguente Maggie trotterellava con la sua canna da pesca in una mano e il manico della sporta nell'altra, mettendo regolarmente i piedi in tutti i posti più fangosi, come era sua specialità. Il viso sotto il cappello di castoro le raggiava perché Tom era buono con lei. A buon conto aveva detto a Tom che preferiva fosse lui a infilzarle i vermicelli sull'amo, quantunque gli credesse sulla parola quando le assicurava che i vermicelli non sentono dolore. L'opinione personale di Tom era che se anche ne sentono, poco male. In materia di vermicelli e pesci e simili lui le sapeva tutte, e quali fossero gli uccelli nocivi e come si aprivano le serrature e da che parte bisognava girare le maniglie delle porte. Maggie riteneva che questa specie di sapere era proprio straordinaria, molto più difficile che ricordare quel che c'è nei libri, e in certo qual modo venerava la superiorità di Tom. La sola persona che chiamasse stupide le cose che lei sapeva e non si mostrasse sorpreso della sua intelligenza. Tom, in realtà, era di opinione che Maggie fosse una scioccherella. Tutte le bambine erano delle scioccherelle, che tirando un sasso non sapevano colpire un bersaglio. Non erano capaci di far niente con un temperino, gli avevano paura dei ranocchi. D'altra parte, egli era molto attaccato alla sorella, e sempre si proponeva di prendersela a suo carico, di farsene la propria massaia e di punirla quando agisse male.